Letture di Radio 24. Negli anni in cui Roberto Saviano con il suo Gomorra diventava un simbolo del coraggio che dà speranza nella lotta contro la criminalità organizzata, le TV americane trasmettevano The Wire, serie televisiva che denunciava le connessioni fra traffico di droga, politica ed economia. Ma come sottolinea Francesco Pacifico in un commento pubblicato oggi sul Sole 24 Ore, la differenza fra le due opere di denuncia è paragonabile alla differenza tra cattolici e protestanti. A metà del primo decennio del secolo, l'Italia veniva conquistata dal libro di un giovane cronista appassionato che già prima dell'esordio si era creato una piccola fama leggendaria fra gli scrittori suoi coetanei, me incluso, per come si infiltrava nei giri bassi della camorra. La sua passione per i meccanismi dell'economia e della criminalità l'avevano portato a raccontare l'Italia e la camorra in modo inedito, coinvolgente ma comprensibile. Gli eccessi di retorica gli venivano perdonati per due motivi. Saviano, l'autore di Gomorra, era uno che capiva la complessità e la sapeva spiegare. Aveva coraggio. Negli stessi anni, come se l'inizio di questo secolo richiedesse opere forti sulla complessità di sistema, in America si affermava una serie TV su temi simili: la connessione fra traffico di droga, società, politica nazionale ed economia internazionale. Si chiamava The Wire e andò in onda dal 2002 al 2008 in 5 stagioni. Fra decine di personaggi di ogni ceto e percorso, tra tossici, poliziotti, criminali, politici, insegnanti, svettava come protagonista la città di Baltimora, una specie di Napoli della East Coast, poco lontana da Washington DC, tutta quartieri popolari, scaricatori di porto, vitalità e traffici vari. A differenza del libro di Saviano, The Wire racconta per immagini. Non gli è concessa la sintesi, il riassunto di fatti, il privilegio di parlare per cifre e fare collegamenti fra le cose senza doverle mostrare ogni volta. La versione cinematografica di Gomorra ha avuto lo stesso problema e l'ha risolto o superato diventando un ottimo film sull'estetica della camorra, la fisica dei quartieri, la teologia architettonica della periferia napoletana inquadrata dall'alto. Valeva come complemento al libro, ne svelava il sapore e certe geometrie nascoste. Gli autori di The Wire, avendo a disposizione più di 10 ore per stagione, il gran vantaggio della serie sul cinema, si imbarcano invece nell'impresa titanica di mostrare i collegamenti. Creano dunque una serie priva di personaggi principali, completamente corale e tanto aperta ad avere per tema in ognuna delle 5 stagioni non tanto le svolte biografiche dei suoi personaggi, quanto di volta in volta una sfaccettatura di quel sistema assurdamente complesso che è una metropoli di oggi. Così si passa dallo spaccio dei quartieri popolari neri e il riciclaggio del denaro sporco della prima stagione al porto con i suoi traffici di prostitute e il contrabbando e la crisi economica nell'America dell'outsourcing nella seconda, dalla corruzione del sistema politico e l'elezione del sindaco nella terza al sistema scolastico pubblico, le sue possibilità di riforma, i suoi limiti e miopie nelle realtà sociali più difficili nella quarta. La 5ª stagione approfondisce infine la crisi del giornalismo d'inchiesta e delle grandi testate. Per capire le differenze fra Gomorra e The Wire, al di là dell'ispirazione simile, mi viene da dire che il primo è un libro cattolico e la seconda un'opera protestante. Saviano è come Gesù che sale sul monte dove il diavolo, la camorra, lo tenta con le sue ricchezze. In quanto giovane del luogo, Saviano aveva la possibilità concreta di entrare nei giri di camorra, ma una specie di santità civile gli ha dato il coraggio di guardare in faccia il diavolo e ora può salvarci dal peccato di essere italiani, informandoci e facendoci partecipare emotivamente alla sua impresa. Intercede per noi. In Gomorra la verità ci è data dal suo sacrificio fisico. Nell'ultima pagina il narratore affonda fino alle cosce in una discarica sommersa dal diluvio e si salva aggrappandosi a un frigorifero. E tutto il tremendo destino dell'autore dopo il successo porta questa relazione autore-lettori fino alle stimmate. The Wire può invece essere considerata un'opera protestante, centrata sulla responsabilità individuale di autori, personaggi e spettatori, che non consente letture univoche. Un po' come quando i protestanti cominciarono a tradurre la Bibbia in lingue correnti perché ognuno la interpretasse da sé, invece di avere la verità calata dall'alto. Partiamo dagli autori. Creata dall'ex reporter David Simon, la serie può considerarsi un'opera collettiva. Il coautore Ed Burns, ex insegnante ed ex detective, dà la sua esperienza decisiva nei due campi e i due sono aiutati da tre grandi autori di crime: Richard Price, George Pelecanos, Dennis Lehane. Ognuno dà il suo contributo, quasi nell'anonimato. Quanto ai personaggi, nessuno viene esaltato, nessuno la passa liscia, nessuno è al di sopra delle critiche. Non ci sono santi né eroi, e le persone di buona volontà ritratte nella serie, che siano professori, poliziotti, spacciatori che si oppongono agli eccessi di violenza, sono gente comune che dà il proprio contributo al bene comune, in questo stile di medietà e responsabilità individuale tipico della mentalità protestante. Così, se Gomorra ha avuto il merito di concentrare l'attenzione generale sulla camorra e Saviano è diventato un simbolo, un trascinatore, sulla piazza mediatica e anche nelle piazze reali della nazione, The Wire nel frattempo è assurto a punto di riferimento per chi vuole cambiare il sistema, penetrando nei meccanismi. Recentemente il sindaco di Reykjavik ha imposto che i membri del suo partito vedano tutta la serie per capire quanto in una città tutto è connesso e complesso. Non solo. Dal piccolo spacciatore minorenne al boss, dal poliziotto al sindaco, dall'autista corrotto del senatore corrotto al pubblico ministero che ha un rapporto conflittuale col commissario, ai professori delle medie e i loro alunni che cominciano a spacciare, ogni situazione messa in scena presenta un potenziale di bene. Anche se ognuno combina guai e nessuno prende mai su di sé i peccati degli altri, si percepisce sempre in potenza l'esistenza del bene. Si afferma così che l'utopia, la riforma, sono parte della realtà. The Wire ha dato tanto all'America, culturalmente. A formalizzare una rilevanza già conquistata sul campo, quest'anno è arrivato un riconoscimento che è quasi un'investitura ufficiale. David Simon ha ricevuto il premio MacArthur. Ogni anno la John D. and Catherine MacArthur Foundation premia un numero variabile di talenti americani in ogni campo creativo, dalle scienze alle arti all'economia. Altrettanto interessante della somma ricevuta, 500.000 euro, cospicuo investimento di denaro tempo nella libertà creativa individuale, è il soprannome del premio, Genius Award. L'hanno vinto tra gli altri Stephen Jay Gould, Richard Rorty, David Foster Wallace, Merce Cunningham, Harold Bloom. David Simon va dunque ad unirsi a un elenco di nomi che hanno fatto l'America recente. Entra nella storia del pensiero americano. Il suo premio va idealmente diviso con tutti i pionieri di questa nuova forma d'arte di cui stiamo vivendo l'età dell'oro. Oltre alle gioie che ci danno, le serie TV rappresentano forse perfino un nuovo promettente modello di lavoro, dove il valore emerge dalle qualità dei singoli e non si smarrisce nelle manie di grandezza individuali e ha per scopo il bene comune, o perlomeno il maggior piacere e guadagno intellettuale possibile per il maggior numero di persone. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Francesco Pacifico dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi.